Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati siamo nel 1968. Un anno cruciale per il mondo e ancora di più per l'America, dove sono in atto grandi cambiamenti. A Memphis, James Earl Ray fa fuoco e uccide Martin Luther King, colpevole di aver dato vita al movimento di riscatto dei neri. La controcultura hippie si lega alla battaglia per i diritti civili e rifiuta tutto ciò che è legato alla società capitalistica e alla violenza. Primo motivo di protesta è la feroce guerra che gli americani stanno combattendo in Vietnam dal 1962. Il Vietnam è spaccato in due. La parte a nord ha un governo comunista appoggiato dall'Unione Sovietica, mentre nella parte a sud c'è un governo filo-americano. Il timore degli Stati Uniti è che il governo comunista si espanda prima a sud e poi ad altri stati asiatici, e per questo ha deciso di intervenire. È un conflitto sanguinario in cui muoiono migliaia di soldati ed è il primo conflitto mediatico spettacolarizzato che passa per la televisione, arriva nelle case e coinvolge l'opinione pubblica, come sentiamo dalle parole di Charlton Heston. Vietnam has been called the first television war. Quella del Vietnam è chiamata la prima guerra della televisione, perché negli anni 60 la televisione diventa una finestra sul mondo. E la guerra non è più lontana. Ce l'hai davanti, ogni volta che accendi, ogni sera. I soldati vengono reclutati negli ambienti più poveri e disagiati, nei quartieri in cui si concentrano disoccupazione e criminalità, come Harlem, New York, cuore della comunità afroamericana. Qui, negli anni 70, violenza, prostituzione, gioco d'azzardo, spaccio sono all'ordine del giorno. Ed è qui che vive un giovane di colore elegante e riservato. Il suo nome è Frank Lucas. Frank Lucas. Frank è originario del North Carolina, dove nasce nel 1930. È il maggiore di cinque fratelli ed è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla mamma. Ma all'età di 16 anni decide di trasferirsi a New York per garantirsi un futuro migliore. Ha visto i suoi cugini morire per mano del Ku Klux Klan e ha sentito che Harlem, in prima linea per la difesa dei diritti dei neri, è la terra promessa. E così sarà per lui, perché ad Harlem sopravvive chi è più forte. Qui Frank diventa autista personale e guardia del corpo di Ellsworth Johnson, detto Bumpy, uno dei più potenti gangster della zona. Lo sentiamo dalla testimonianza di Ron Chepesiuk, autore di Gangs of Harlem, un libro sulla storia dei boss del quartiere. Bumpy Johnson operated in Harlem. Bumpy era una potenza in Harlem. Lavorava con Cosa Nostra. E man mano che i membri di Cosa Nostra sparivano, lui diventava il vero re del quartiere. Bumpy controlla le strade, si occupa di grandi traffici illegali e sposta enormi somme di denaro. Il tutto viene fatto nella maggiore discrezione. Se i piccoli criminali sono chiaramente individuabili, i pezzi grossi conducono esistenze ordinarie, si mescolano alla gente, sfuggono ai controlli della polizia grazie a reti di relazioni solidissime e capillari. Frank, umile ragazzo di provincia, con Bumpy entra in contatto con il mondo della malavita organizzata più potente di tutta New York. L'intera Harlem è nelle mani di Bumpy, che per la gente del quartiere è una sorta di eroe romantico. Regala tacchini per il giorno del ringraziamento, compra gelati ai bambini, difende i poveri dai soprusi. Ha imparato dagli italiani a costruire intorno a sé una rete di collaboratori fedelissimi, che diventano come una grande famiglia. Bumpy dà protezione in cambio di rispetto e non sbaglia una mossa. Però tanti sono gli amici, così come i nemici. Eppure Bumpy sembra immortale. Sopravvive ad agguati, minacce, sparatorie. Frank lo segue ovunque, studia i suoi movimenti e scopre i suoi segreti. Per lui è una figura fondamentale, un modello a cui ispirarsi, un vero e proprio maestro, come racconta lui stesso. Bumpy era come un padrino per me, anzi, qualcosa di più. Mi ha insegnato tutto. Quando nel 1968 Bumpy muore, Frank è come al solito a suo fianco. Da quando è stato assunto non l'ha mai lasciato un momento. Bumpy ha appena fatto colazione. Mentre aspetta che arrivi Frank a prenderlo, sta leggendo le notizie del giorno, al solito bar, sotto casa. La sua vita è scandita da ritmi regolarissimi e in apparenza sempre uguali. Ma tutto fa parte della strategia. Avere l'aspetto dell'uomo qualunque è la chiave per non essere disturbati mentre si compiono ben altre pericolose operazioni. E poi ormai Bumpy è solo il cervello, il supervisore di un sistema perfettamente rodato. Lui pensa, innesca gli affari e i suoi uomini fedeli eseguono senza fermarsi di fronte fronte a niente. Quando serve, uccidono. Quello che conta sono i soldi. Frank arriva, saluta la cameriera, le chiede come stanno i suoi bambini. Non è una formalità, gli interessa davvero perché gli piace conoscere la sua gente, sentirla vicino. Con la comunità avverte un senso di appartenenza fortissimo. Beve un caffè, poi fa salire Bumpy in macchina e insieme vanno in banca. Frank parcheggia, entrano dalla porta a vetri, qualche passo verso il bancone e Bumpy si accascia a terra. Frank interviene immediatamente, chiama aiuto, ma è troppo tardi. Per una beffa del destino, dopo un'esistenza pericolosa con la possibilità di morire ogni giorno per un regolamento di conti, Bumpy muore per un banale attacco di cuore. Il suo funerale sembra una parata di star. Tutti erano amici di Bumpy, tutti avevano fatto affari con lui, ma per Frank la sua morte significa molto di più. È l'unico che a Bumpy vuole bene, sinceramente. L'unico che non gli è stato vicino solo per quello che aveva e che rappresentava. Il dolore lo attanaglia. Improvvisamente si sente orfano. È lui stesso a raccontarcelo. Quando è morto lui non sapevo cosa fare. Stavo con lui ogni giorno. Era il mio padrino. Continuavo a chiedermi cosa avrei fatto dopo la morte di Bumpy. La risposta ce l'ha un altro fedelissimo di Bumpy, che al funerale porta a Frank un bicchiere di vino, lo avvicina e gli comunica nell'orecchio le ultime volontà del capo. È lui il prescelto. Lui raccoglierà l'eredità di Bumpy e prenderà in mano tutto il suo giro d'affari. Frank prende la missione di petto. Non tanto perché gli interessa il giro d'affari, almeno all'inizio. Lo fa perché così avrebbe voluto Bumpy, perché sente la responsabilità di continuare il suo lavoro. È come un figlio che non vuole gettare via ciò che ha costruito negli anni suo padre e se ne fa carico. Per prima cosa, Frank comincia a occuparsi dello spaccio di eroina ad Harlem e nei quartieri limitrofi. Controlla tutto personalmente. Per non dare nell'occhio, si camuffa con barba finta e parrucca, sale su auto prestate, si butta nei vicoli dove i tossici comprano la droga. Ce ne sono ad ogni angolo e il mercato sembra essere inarrestabile. Il motivo lo individua lo stesso Lucas. Solo la droga poteva rendere sopportabile la vita del quartiere. Era una vita schifosa. Fin da subito Frank è freddo e calcola ogni minimo dettaglio. Conosce ogni volto, ogni spostamento. D'altra parte è stato per anni a fianco di Bumpy e grazie alla sua grande memoria si ricorda tutto. Ha immagazzinato come una spugna. Frank non si droga perché deve rimanere sempre estremamente lucido e nemmeno beve. Come il suo mentore Bumpy conduce una vita di basso profilo, ma dietro la facciata da signore per bene c'è un individuo senza scrupoli che più passa il tempo più rivela di avere l'intuito dell'uomo d'affari e la tempra del killer. Gli anni con Bumpy gli hanno insegnato che non c'è sentimentalismo che tenga di fronte ai soldi. Il potere totale, il pieno dominio del territorio e di chi ci vive sono le cose che contano. La morte di Bumpy smuove le acque nella malavita di New York. Cambiano gli equilibri. Molti gangster sperano di prendere il suo posto nel dominio della città. Anche la mafia italiana cerca di recuperare territori perduti, ma il vero favorito nella corsa al potere è Lucas. È stato il braccio destro di Bumpy per così tanto tempo da avere imparato tutto da lui. Soprattutto una cosa fondamentale. It's okay for people to respect. Va bene quando le persone ti rispettano. Ma quando hanno paura di te, allora sì che hai davvero il potere. Frank però ha una marcia in più rispetto a Bumpy. È moderno, non agisce in modo tradizionale e ha un grande spirito da imprenditore. E un giorno ha un'idea geniale. Frank è in casa, la finestra è aperta, si sentono i bambini che stanno giocando per strada. La televisione è accesa su uno speciale sul Vietnam. È una guerra monitorata giorno e notte dai mezzi di comunicazione. Frank alza il volume perché le urla dei bambini non lo lasciano sentire. Sullo schermo passano le immagini delle armi, dei ragazzi che combattono, delle bare con i resti dei morti che tornano a casa. Istintivamente Frank abbassa lo sguardo. Quei fotogrammi così violenti lo disturbano. Proprio lui che con la violenza ha a che fare quotidianamente. E poi il giornalista parla di droga, racconta che la sua diffusione all'interno dei gruppi di soldati sta diventando preoccupante. Per Lucas è un'illuminazione. E ricorda così quel momento a distanza di anni. Avevo sentito di questi veterani che laggiù in Vietnam cercavano roba per tenersi su di giri tutto il tempo. Ho cercato di scoprire cosa prendevano, com'era quella droga, quanto costava, che tipo di roba era. E ho deciso che dovevo andare a vedere. Frank Lucas decide di partire per il Vietnam per scoprire dove quelli che combattono comprano la droga. Lo scenario che gli si prospetta davanti è un pugno allo stomaco. Devastazione, armi, soldati completamente fatti di eroina, ragazze che si prostituiscono per pochi dollari americani in nightclub sporchi e malfamati. Frank è impressionato, ma vuole andare fino in fondo. Convince un suo aggancio sul posto ad accompagnarlo nella giungla più profonda, dove incontrerà i veri signori della droga. È un percorso pericolosissimo, ma ogni tentativo di dissuaderlo è vano. Il suo obiettivo, come racconta David Eisenbach, docente di storia della Columbia University, è troppo importante. Frank Lucas sapeva benissimo che arrivare a monte della catena della droga gli avrebbe permesso di abbattere i costi e guadagnare molto di più. Voleva diventare da solo più potente della mafia italiana. E d'altra parte aveva già la protezione di tutti gli uomini di Bumpy. Frank attraversa il fiume a bordo di una piccola imbarcazione di legno. Ci mette ore. Le zanzare e gli insetti arrivano da ogni lato e l'umidità è altissima. Frank non è abituato. Si protegge la faccia con un fazzoletto, ma continua a tossire e gli manca il respiro. L'atmosfera è quella raccontata in Cuore di tenebra di Joseph Conrad, a cui si ispira il film Apocalypse Now, diretto nel 1979 da Francis Ford Coppola. Lì dentro c'era un odore di morte lenta. Di malaria. Di incubi. Era senz'altro la fine del fiume. Frank arriva in una grande casa nel cuore della giungla. Una volta entrato, si toglie le scarpe e si siede per terra, di fronte al signore della droga più potente di tutto il sud-est asiatico. Frank non è teso, o almeno sa nasconderlo benissimo. Ha capito che ostentare sicurezza fa risultare convincenti e applica sempre questa teoria. Frank propone al boss di importare la sua droga in America. Gli spiega che se la domanda è tanta tra i soldati, nei quartieri di periferia americani c'è un mercato in continua espansione. All'inizio il boss è titubante. Come può fidarsi di un americano mai visto prima? Ma intuisce che Lucas ha qualcosa di speciale, che con lui si può davvero fare un affare, perché è uno che mantiene le promesse. Quindi, con una stretta di mano, il patto è siglato. Eccola, la modernità, l'idea che cambia il modo di vedere le cose. Frank riesce a uscire dagli schemi tradizionali. Adesso può saltare tutta la lunga catena di intermediari presenti nel giro della droga, acquistando l'eroina direttamente dal produttore. Così facendo, riesce a vendere un prodotto molto migliore di quello dei suoi concorrenti a un prezzo molto più basso, un'operazione di cui va orgoglioso. Avevo trovato il modo di battere la concorrenza. Era un'idea semplice ma geniale. Sarei riuscito a vendere molta più roba perché l'eroina era purissima e costava molto meno di quella degli altri. E infatti, in breve tempo, Lucas riesce a espandere il suo giro fino a farlo diventare un vero impero. Tutti vogliono la sua eroina, che dalle analisi chimiche risulta pura al 100%, la più pura mai circolata finora. La chiamerà Blue Magic, che diventa un vero marchio di fabbrica, al punto che quando scoprirà che qualcuno vende roba che non viene dal suo giro chiamandola Blue Magic, lo costringerà a cambiarle nome. Frank adesso è un uomo importante. Harlem è stata davvero la terra promessa. Può tornare nel North Carolina per rendere felice e fiera di lui la sua famiglia. Compra alla madre un'enorme villa in stile coloniale. Lei accetta emozionata senza fare domande. Poi recluta i suoi fratelli. Ha imparato da Bumpy, che a sua volta l'ha imparato dagli italiani, quanto è importante circondarsi della famiglia. Ero il primogenito. Se fossi stato poliziotto, anche loro avrebbero fatto i poliziotti. Ma ero quello che ero, e loro dovevano stare con me. Porta tutti a New York e compra per ognuno un negozio che in realtà è una copertura. Tintoria, ferramenta, carrozzeria, tutte attività che sono invece fondamentali punti di smistamento per la droga. Ma per un boss, oltre alla famiglia, è altrettanto importante avere una donna accanto. Non una donna esuberante che attiri l'attenzione. Una donna fedele, discreta, che non vuole sapere e che accetta di rimanere a fianco del marito in ogni momento. Frank trova la sua un giorno a una festa. Lei si chiama Eva ed è una reginetta di bellezza di origini portoricane che abbassa lo sguardo quando lui le parla. È amore a prima vista. La donna più meravigliosa del mondo. Così era la mia donna. Frank la presenta a sua madre. È la donna che vuole sposare. Intanto il giro d'affari cresce sempre di più. La Blue Magic arriva ovunque. Prima esce ad Harlem e poi a New York. Si è sparsa la voce che è la migliore, buona il doppio e costa la metà. si può addirittura fumare e questo apre il mercato dei ragazzini che hanno paura di bucarsi. Frank ordina ai produttori del sud-est quantitativi sempre maggiori, come ricorda lo scrittore Ron Chepesiuk. È arrivato a un punto in cui riusciva a far entrare negli Stati Uniti 1.000 chili di eroina all'anno. È probabilmente l'uomo che è riuscito a fare più soldi con la droga. E tutto da solo. Sono gli anni 70. La televisione denuncia il problema dell'abuso di sostanze tra i soldati e la sua enorme diffusione nei quartieri più poveri come in quelli ricchi. La droga diventa il nemico numero uno degli Stati Uniti. Frank guadagna $1 milione al giorno. Ma sta attento a non attirare l'attenzione. Sa benissimo che solo per il fatto di essere nero, l'ostentazione della ricchezza potrebbe insospettire la polizia. E così continua con la sua vita di sempre. La mattina si alza alle 5, beve un caffè nel solito bar e poi inizia a lavorare. Poche cene fuori con Eva, rare uscite mondane. In ogni caso, mai con qualcuno del mondo del crimine. Sta bene attento, non deve sbagliare neanche una mossa. Si comporta come il più tipico bravo ragazzo. La domenica prende la madre sotto braccio e la accompagna a messa. Poi va al cimitero e cambia i fiori sulla tomba di Bumpy. E proprio come gli ha insegnato il suo maestro, sta a contatto con la gente. Regala cibo, abiti, aiuta gli anziani e i bambini. È come un moderno Robin Hood per la comunità. I poliziotti che si avventurano nel quartiere prendono qualche piccolo spacciatore, ma non toccano i vertici del sistema. Conviene intascare qualche mazzetta e lasciarli agire indisturbati. Frank Lucas, grazie alla sua miniera d'oro che si chiama Blue Magic, è diventato l'imperatore di Harlem. A destini incrociati siamo all'inizio degli anni 70 e siamo ad Harlem, il quartiere a maggioranza afroamericana di New York. Un uomo di 40 anni, originario del North Carolina, Frank Lucas, sta facendo una fortuna con una droga importata direttamente dal sud-est asiatico, la Blue Magic. Lucas è riuscito a rivoluzionare il tradizionale sistema dello spaccio che prevede una serie di intermediari, rifornendosi direttamente dai produttori, vendendo eroina purissima a un prezzo molto più basso degli altri, sbaragliando così la concorrenza. Lo sentiamo dalle sue parole. Era un'idea semplice, eppure non era ancora venuta a nessuno. I passaggi intermedi facevano lievitare i costi. Io ho saputo trattare con i produttori e la cosa è convenuta sia a me che a loro. È stato un affare per tutti. L'idea gli è venuta ascoltando alla televisione le notizie sulla guerra in corso in Vietnam, dove la diffusione della droga tra i soldati è diventata un fenomeno preoccupante, una vera e propria minaccia. E così ha preso un aereo ed è andato sul posto per vedere di persona come guadagnare da quella situazione. In breve tempo è diventato milionario. Aveva tutto, come ricorda lui stesso. Io ero ricco, avevo case, vestiti, scarpe e mi piacevano le macchine, Rolls Royce, Mercedes, insomma avevo tutto. Lucas ha messo in piedi un'organizzazione ramificata che fa capo a lui. Ha sguinzagliato fratelli e cugini per il quartiere assegnandogli attività di copertura che in realtà sono punti di smistamento della droga. E ora cura tutto nei particolari, stando attento a condurre una vita riservata, a non dare nell'occhio per non attirare l'attenzione della polizia. E infatti accumula solo un paio di denunce per gioco d'azzardo e porto d'armi non autorizzato. Piccole cose, confronto al commercio di droga che ha messo in piedi e che nessuno alla narcotici neanche immagina. Finché un giorno qualcuno comincia a insospettirsi. È l'8 marzo 1971. Al Madison Square Garden di New York sta per cominciare il match di pugilato del secolo. Sul ring si sfidano Muhammad Ali e Joe Frazier. Non è solo un incontro di boxe, è una sfida tra due visioni del mondo e della storia. Ali è appena stato riammesso nel mondo della boxe, era stato cacciato perché si era rifiutato di partire per il Vietnam. Frazier, invece, rappresenta l'appoggio totale e incondizionato alla guerra. L'artista Leroy Neiman è pronto a dipingere il combattimento momento per momento. I biglietti dell'incontro sono esauriti da mesi e tutte le celebrità si sono già accaparrate i posti migliori. Ci sono Woody Allen con Diane Keaton, Burt Lancaster, Frank Sinatra. Frank Lucas si presenta con la moglie Eva. Indossa una pelliccia vistosa da migliaia di dollari. Non è nel suo stile. Dà troppo nell'occhio, ma gliel'ha regalata Eva e l'ha messa per farle piacere. La ama e cerca di accontentarla in ogni modo. Tanto è duro al lavoro, tanto è tenero con lei. Mai però docile. L'uomo di casa è lui. Eva è una donna che non deve mettersi in mezzo nelle questioni d'affari. All'incontro i due hanno i posti più ambiti. Sono esattamente sotto il ring. Un uomo in fondo alla sala li nota. È un detective. È lì per cercare altri criminali. Ma la figura di Lucas attira la sua attenzione. Il detective capisce subito che c'è qualcosa di strano. Un nero con una pelliccia seduto sotto al ring e che si comporta come una star. Istintivamente inizia a scattargli delle fotografie. Chi è quell'uomo tanto importante ad avere posti così buoni e perché tutti lo salutano? Anche lui non sa ancora che è solo l'inizio e che il destino gli sta riservando una svolta nella vita. Il suo nome è Richie Roberts. Richie Roberts. Roberts torna in ufficio e inizia le ricerche. Vuole capire di più. Si avvicina alla bacheca su cui sono stati appesi i volti degli obiettivi da catturare, ma il ragazzo che ha visto in prima fila al Madison Square Garden non c'è. Entra in camera oscura, intinge il negativo, stende le foto ad asciugare. Quando sono pronte, le attacca con una puntina alla bacheca e si ferma davanti alla faccia di Frank. È sicuro di non averlo mai visto prima. Lo racconta lui stesso. Fu in quell'occasione che vidi Frank Lucas per la prima volta. Eppure sono anni che Roberts gira il quartiere in cerca di personaggi da mettere in galera. E sa bene come muoversi, l'ha imparato con l'esperienza. Scopriamo insieme chi è. Richie Roberts, classe 1944, è nato nel Bronx, quartiere duro e violento di New York, da una famiglia di tradizione ebraica. I ragazzi che frequenta sono spesso coinvolti nella piccola criminalità, sono ladruncoli, piccoli spacciatori, qualcuno anche un tossico. Richie è diverso. Integro e dalla morale solidissima, resta sempre nella legalità, ma non rinuncia a essere amico dei compagni di quartiere. Sentiamo dalle sue parole quanto sia importante per lui. Io con quei ragazzi ci sono cresciuto. Erano sbandati, ma a me non importava. Io gli volevo bene. E infatti continua a frequentarli anche quando diventa poliziotto. Ci gioca a football, ci passa le serate. Non li vuole proteggere, anzi. Si serve dei loro segreti per catturare criminali ben più pericolosi e da loro impara come muoversi nell'ambiente. Richie è un agente che conosce bene la città, ci è nato e lì sono le sue radici. Di giorno lavora per le strade e la sera in casa studia per passare l'esame di Stato e diventare avvocato. Gli piace l'idea di poter difendere le persone, sembra che il destino voglia prepararlo al meglio al suo futuro. Ha un figlio e una moglie da cui sta divorziando, che vuole portargli via il bambino, preoccupata della vita che conduce tra sparatorie, gangster, violenza e droga. Ma è la vita della periferia, come racconta il giudice Sterling Johnson. Non ci sono eroi in quella comunità. Tutti si arrabattano, si cerca di sopravvivere, prima ancora di vivere. Richie sul lavoro è impeccabile, un detective incorruttibile e di profonda onestà. E questo lo distingue dalla maggior parte dei suoi colleghi, che invece collaborano con la malavita in cambio di denaro e favori. Ma un giorno Richie si trova a dover fare una scelta difficilissima. Richie è in un vicolo con la gente con cui è sempre in coppia. Stanno cercando un grosso spacciatore del giro di Harlem. Vedono una macchina abbandonata. Richie si avvicina per sincerarsi che non ci sia dentro nessuno. Poi, senza lasciare la pistola, apre con un gesto rapido il bagagliaio. Dentro c'è $1,000,000, tutto in banconote non segnate. Si prospetta una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita, come racconta lui stesso. Non sapevo cosa fare di tutti quei soldi. Non se ne sarebbe accorto nessuno. Potevo tenerli e vivere da ricco per il resto della mia vita. La tentazione è stata davvero forte. Ma invece, come sempre, in Richie prevale l'etica. Nonostante il parere contrario del suo collega, che preferirebbe dividere i soldi con Richie e mantenere il segreto, porta tutti i soldi al commissariato. La consegna del denaro sporco diventa anche una denuncia dei colleghi corrotti e la notizia fa il giro di New York, arrivando anche alle orecchie di Frank Lucas, che si stupisce dell'esistenza di un poliziotto integro, abituato com'è a fare affari con tutti gli altri. Da questo momento Richie ha molti nemici all'interno della polizia ed è costretto a mettersi a lavorare con una nuova squadra composta da elementi scelti da lui personalmente. La sua nuova missione è nella sezione narcotici di New York. Gli obiettivi sono i pesci grossi, non i piccoli traffici di strada, ed è così che Roberts si trova subito a fare i conti con la Blue Magic. La Blue Magic era di una qualità eccezionale. Ho scoperto che la prendevano veramente tutti e la trovavi dovunque. Richie e i suoi uomini incominciano le indagini, scoprono nomi e facce. Vuole andare sempre più a fondo. Chiede al capo della narcotici $20,000 per comprare lui stesso della droga e smascherare degli spostamenti di roba. In incognito si avventura nei negozi e si comporta come un tossico. Sa bene come muoversi, l'ha imparato nel Bronx, il suo quartiere. Sembra essere vicino all'obiettivo, finché un giorno manda tutto all'aria. Non è la strada giusta, bisogna ricominciare da zero. Quelli rintracciati sono ancora burattini nelle mani di qualcuno di più potente, di un'organizzazione grande e di professionisti. Ancora non immagina che dietro a tutto questo invece ci sia un solo uomo, il signore incontrastato della Blue Magic, il nero con la pelliccia che tifava per Ali, Frank Lucas. I destini incrociati di oggi si muovono tra droga e violenza, sullo sfondo di una New York dei primi anni 70. Richie Roberts è un agente a capo della squadra della narcotici, sta cercando di scoprire chi è a capo dell'organizzazione della Blue Magic, droga che arriva direttamente dal sud-est asiatico, purissima, ma più economica delle altre, e che sta spopolando ovunque. Un giorno è al Madison Square Garden, dove sta per svolgersi l'incontro di pugilato del secolo, lo scontro fra Muhammad Ali e Joe Frazier. Nota un uomo seduto in prima fila con la moglie, che ha i posti migliori. Tutto fa pensare che sia potentissimo e influente, ma Richie non l'ha mai visto prima. Torna in commissariato e dopo una breve ricerca lo identifica. È Frank Lucas. Così ne parla lo stesso Roberts. Frank Lucas, the businessman. Frank Lucas, l'uomo d'affari. Come posso definirlo? Freddo, a suo modo geniale. L'unica cosa che gli importava era fare più soldi che poteva. Gli uomini di Roberts scoprono tutto di lui e iniziano a pedinare i fratelli che di solito sono attentissimi a come si comportano, sapendo che non devono dare nell'occhio, come gli ha insegnato Frank. Ma una notte, in preda a un raptus di rabbia e gelosia, uno di loro commette un errore. Spara a una ragazza per strada e viene visto da due agenti sotto copertura. Viene portato in centrale e torchiato per ore. Il ragazzo, molto più ingenuo e sprovveduto del fratello, alla fine estenuato accetta di collaborare con la polizia. Di lì a qualche giorno intercetta per loro una telefonata di Lucas, dove si parla di una targa del veicolo che porterà la droga a New York. Gli uomini di Roberts capiscono che non si tratta di un veicolo comune, ma di un aereo militare proveniente dal Vietnam. In fact, it's a crime, it's a crime. Nel 1975 la guerra in Vietnam sta per finire. Gli americani hanno capito che non c'è più nulla da fare, troppi giovani sono già morti. La coalizione comunista vincerà. Lucas, preoccupato di come fare senza la complicità dei soldati a importare la droga, va a controllare di persona la situazione. Non gli importa niente della situazione politica, delle conseguenze sociali. Non si è mai fatto scrupoli neanche per aver incrementato in modo impressionante il traffico di droga. Questo è il suo punto di vista. Io facevo solo quello che dovevo fare, e cioè un mucchio di soldi. È quello che ho fatto per tutta la vita. Sono un dannato uomo d'affari. Soldati aerei cominciano a rientrare dal Vietnam, incluso quello con il codice intercettato nella telefonata di Lucas. Roberts e i suoi uomini ottengono un mandato e perquisiscono l'intero velivolo, ma non trovano niente. Niente, da nessuna parte. Poi, distrattamente, Roberts guarda un soldato che sta scaricando una bara. Intuisce immediatamente che c'è qualcosa di strano. Chiede così al capitano di aprire la bara, ma lui si rifiuta. Dentro c'è il cadavere di uno dei ragazzi uccisi nei combattimenti con i Viet Cong. Come può chiedere di fare una cosa del genere? Richie non ha mai usato metodi ortodossi, lo sanno tutti. È sempre stato molto sbrigativo e ha agito in modo flessibile, secondo buon senso. Ma questo, aprire una bara, è davvero troppo. Richie però non si dà per vinto. Scopre che i soldati deceduti vengono tolti dalle bare e messi in altre più lussuose per i funerali. Ma che fine fanno quelle altre bare? Vengono prese dagli uomini di Lucas. Il sospetto di Roberts comincia a prendere corpo. La roba viene fatta uscire dal Vietnam insieme ai cadaveri dei soldati americani e poi portata nelle case popolari dove viene preparata e smistata. Un'idea tanto macabra quanto fruttifera. Non c'è tempo da perdere. Roberts ottiene un mandato e sparge per la città una grande quantità di agenti che arrestano subito i fratelli di Lucas. Per il boss invece la cattura diventa quasi una cosa personale. E lo stesso Roberts, che se ne vuole occupare, vuole vedere in faccia l'uomo più potente del momento e avere la soddisfazione di mettergli le manette. Così si apposta davanti alla chiesa in cui Lucas sta seguendo la messa con la moglie e la madre e all'uscita lo arresta. Il destino ha compiuto il suo corso. inizia un lungo e spettacolare processo, come ricorda lo stesso Ricci. Non ci crederai, non avevo mai visto una cosa del genere. C'era una folla di celebrità impressionante che aspettava solo che arrivasse Frank con la sua famiglia. Roberts non vuole vendetta, vuole giustizia. E faccia a faccia con Lucas, gli propone di collaborare con lui per smascherare il giro di poliziotti corrotti che l'hanno aiutato per anni nelle importazioni della droga. Lucas non ci pensa due volte e accetta. Quel poliziotto gli piace, c'è qualcosa che glielo fa sentire vicino. È un bianco, ma è un bianco del Bronx e sa cos'è la vita di quartiere. Non ha vissuto in una bolla, è cresciuto per strada, proprio come lui. L'empatia è reciproca. Roberts non riesce a guardare Lucas come si guarda un criminale, lo guarda come un uomo. E così i due insieme mettono dietro alle sbarre decine di agenti. Lo racconta David Eisenbach della Columbia University. Richie Roberts non è solo riuscito a fermare il più grande signore della droga di sempre, e con lui tutto il suo impero, ma anche i poliziotti che avevano legami con la mafia italiana. Richie e Frank stanno insieme ogni giorno, lavorano insieme, si raccontano. In un certo senso si somigliano, e così diventano anche amici. Roberts nel frattempo è riuscito a passare l'esame e a diventare avvocato. Il suo primo cliente sembra incredibile, ma è proprio Frank. La pena stabilita per Lucas è di 70 anni di reclusione, ma grazie all'accorata difesa di Ricci riesce a stare in carcere solo 15 anni. Quando Frank esce di galera nel 1991, la città è molto diversa da come l'aveva lasciata. Meglio per certi versi, molto più dura e pericolosa per altri. Lui è solo, sua madre è morta, la moglie è andata a vivere a Porto Rico. Però adesso ha un nuovo amico, Ricci, il cui aiuto è stato fondamentale. Frank non se lo può dimenticare. Non so cosa avrei fatto senza di lui. Non avevo nessuno e lui mi ha aiutato moltissimo. È stato un fratello. Grazie a Ricci, Frank riesce a rifarsi una vita. Trova una nuova compagna, ha un figlio a cui Roberts farà da padrino. Due uomini opposti, il buono e il cattivo, che si ritrovano indissolubilmente legati per tutta la vita. Una vicenda sociale e umana, magistralmente raccontata dal film American Gangster, girato nel 2007 da Ridley Scott. A chi si chiede perché Frank non sia scappato, come hanno fatto altri, Denzel Washington, che lo ha interpretato, risponde così. Questo è il mio paese, io non me ne vado. Frank Lucas non scappa davanti a nessuno. Questa è l'America.